il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Tornano nel Veneto i bachi da seta. Ne abbiamo già parlato nella nostra rubrica anche lo scorso anno, ma oggi torniamo su questo tema perché non solo ci sembra molto interessante il passato che ritorna e che scopre di avere ancora un ruolo possibile nell'economia veneta, ma anche perché da pochi giorni è nata ed è stata presa nella sede di Coldiretti Veneto l'associazione italiana Gelsi Bachicoltura. Fernando Pellizzari è agronomo ed è da pochi giorni presidente della neonata associazione. Ecco, signor Pellizzari, perché questa rinascita della bachicoltura? Della Gelsi Bachicoltura, questo interesse per la coltivazione dei bachi e poi del rinnovare la filiera della seta in Italia? La rinascita della Gelsi Bachicoltura è causa, possiamo dire causa o conseguenza, di tutta una diversità di utilizzazione finale che si può fare del bozzolo. Infatti non è più che il bozzolo si usi solamente per la industria tessile, per produrre dei tessuti particolari in seta, ma viene anche usato soprattutto in cosmesi ed in farmacologia. Oltre al fatto, esempio, che si è scoperto il grosso utilizzo che può avere la crisalide per la realizzazione dell'olio di crisalide, che viene usato anche questo in cosmesi, ma oltre al fatto per creare degli integratori, dei mangimi per l'alimentazione animale. Quindi la ripresa di interesse verso questo settore nasce da una richiesta del mercato in realtà? Sì, abbiamo tutta questa diversità di utilizzatori finali che quindi chiedono bozzolo italiano, soprattutto tutto prodotto al 100% italiano, anche perché l'Italia è il primo Stato mondiale che ha certificato la foglia biologica, ha certificato il seme bachi biologico e sta lavorando, dando il seme bachi agli allevatori, di dare a loro l'opportunità di fare il bozzolo biologico, che diventa importantissimo soprattutto nel settore della cosmesi e della farmacia. Ecco, è nata questa associazione italiana Gelsi Bachicoltura ed è nata qui nel Veneto. Perché nel Veneto e quali sono un po' gli scopi di questa associazione? Beh, nel Veneto perché anche la passata Associazione Nazionale Bachicoltori, questa gloriosa associazione nata nel 1948 e poi chiusa nel 2012 per un regolamento europeo, che invece ci siamo accorti subito dopo che c'era la proprio possibilità di realizzarne una nuova per tutte queste richieste che avevamo da tutta Italia di potenziali gelsi bachicoltori che vogliono intraprendere di nuovo questa attività, ma soprattutto in Veneto perché qui è sempre stato il fulcro, cioè è stata una delle principali zone dove che la bachicoltura ha sempre avuto un ruolo importantissimo, le produzioni erano molto elevate, avevamo avuto negli anni 80 i problemi con questo insetticida col nome commerciale Insegar che aveva fatto chiudere tutti i nostri allevamenti. Oggi che fortunatamente questa problematica ambientale sembra superata, ecco perché la rinascita della via della seta veneta, che questo dimostra che i nostri allevatori a questa cosa ci credevano sempre. Perché? Perché vediamo che potenzialmente è un reddito integrativo interessante ad un'attività agricola principale. Qual è la situazione oggi? Ci sono quindi già agricoltori che coltivano i gelsi, delle associazioni, cioè delle cooperative, delle aziende che lavorano, allevano i bachi e poi che utilizzano la seta finale, anche che tessono? No, allora, abbiamo già più di qualche allevatore che è partito dal 2014 e ha incominciato ad allevare, ma soprattutto oggi, visto che bisogna fare una Gelsi bachicoltura da reddito, stiamo operando per creare dei gelsetti nuovi. Perché? Perché è in questo modo che si vanno ad abbattere molto i costi di produzione, quindi diventa un interesse, ma soprattutto anche perché si è incentivati, perché vediamo che il bozzolo prodotto trova un utilizzo finale. Anzi, oggi possiamo dire che siamo in un momento che la domanda è superiore all'offerta. Ecco perché c'è tutta questa incentivazione di queste aziende agricole di poter ripartire, e con la conoscenza storica che avevamo in Veneto è una maggior facilità per loro ripartire, oltre al fatto che in Veneto è importantissimo questo, esiste lì proprio l'Istituto Sperimentale di Bachicoltura di Padova, l'unico in Italia, il più importante in Europa e uno dei primi a livello mondiale, che ci offre questa possibilità di avere un seme bachi molto e molto, molto, molto buono, che consente delle produzioni valide, ma soprattutto anche che ci offre la possibilità di sperimentare delle nuove tecnologie utili per questo tipo di allevamento. Ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Giorni in cui non sai che ora è, né più chi sei. Provi a riconoscerti in qualche via, in qualche film, e cerchi tra le nuvole un attimo per te. È solo un inverno, un canto notturno, pace, guerre, tregua che crescono in te, e ti vien da piangere, e vorresti correre, ma resti immobile. E tornerà l'amore, senza far rumore, e ti accesa la finestra aperta, e tornerà l'amore, tornerà l'amore. Cosa ti scatenerà se ascolterai la mia musica? Le canzoni più sono romantiche, più sembra che parlin di te. E cerchi tra le nuvole un angolo per te, e poi vorresti esplodere in 100.000 lacrime, ma resti immobile. Accesa la finestra aperta, e tornerà l'amore da te. Mm. poi ti vien da piangere e vorresti correre, ma resti immobile. Tornerà l'amore senza far rumore e ti riconoscerà. Nascerà una luce accesa, finestra aperta, tornerà l'amore, tornerà l'amore, tornerà l'amore, tornerà l'amore. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando della nascita dell'Associazione Italiana Gelso Bachicoltura con il presidente Fernando Pellizzari. Abbiamo visto che c'è un certo interesse da parte delle, cooperative sociali verso la coltivazione, in particolar modo del bacco, l'allevamento del bacco da seta. Perché c'è questo interesse? Sì, infatti se noi andiamo a vedere chi sono i costituenti fondatori dell'Associazione Italiana Gelsi Bachicoltura, vediamo che su 8 fondatori 4 sono fatti da cooperative sociali. Il perché questo? Perché è qualche anno che stiamo lavorando con loro assieme al CRA, cioè Istituto Sperimentale di Bachicoltura di Padova, perché queste cooperative si sono accorti che i loro soci, se facevano queste cooperative un'attività agricola, si sono accorti che introdurre il settore bachicoltura si presta molto alla capacità che hanno questi soci di poter lavorare differentemente di altri tipi di allevamenti. Ecco perché le cooperative sociali credono molto in questo progetto e partecipano molto. Giorgio Simeonato è invece un imprenditore agricolo che ha deciso di piantumare nel proprio terreno dei gelsi. Ecco, vorremmo sapere da lui se veramente questa può essere una vecchia e nuova attività anche per gli imprenditori. Sì, la vedo come effettivamente una nuova attività, in quanto ci dà soprattutto a noi giovani coltivatori un apporto di fiducia e a lavorare strettamente con la natura e una cultura nuova per tutti i giovani coltivatori. Questo anche a monte di tutti i problemi che ci sono oggi in agricoltura, vedi quote latte, vedi la carne, e questo è un settore che più si addice a nuove esigenze che dobbiamo cavalcare per venirne fuori da questa crisi. Cosa vuol dire coltivare i gelsi? Semplicemente sono delle siepi che vengono piantumate, ci sono delle particolari esigenze? Perché sicuramente è diverso da una coltivazione classica. Sì, allora come possiamo dire, se noi valutiamo una nuova coltivazione dobbiamo adeguarci a nuovi tipi di coltivazione in senso buono, in senso lato. Una volta si facevano dei filari, perché questo era a servizio di un'azienda dove c'erano anche i vigneti e quant'altro. Oggi che si cerca di fare un'agricoltura un po' più specializzata, questi gelsi vengono sempre messi a filari, però non più assieme ad altre colture, ma solo da soli. Questo per avere un lavoro minoritario per quanto riguarda la raccolta dopo, per l'allevamento e per il cibo dei bachi, in pratica. Ecco, questo è tutto. Grazie. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima settimana, vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.